Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. In occasione del 25° anniversario dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, i collaboratori abituali del settimanale Domenica hanno analizzato come sono cambiati negli ultimi 25 anni i vari aspetti della nostra cultura. In questo articolo Roberto Escobar evidenzia i mutamenti avvenuti nell'ultimo quarto di secolo nel mondo del cinema. Lo si diceva il secolo scorso, già a metà degli anni Ottanta. Il cinema ha il tempo contato. Qualche decennio, non di più. Neri uccelli di malaugurio volavano di redazione in redazione, gracchiando minacciosi. Il futuro è della televisione, profetizzavano funerei. Chi allora si ostinava ad amare il cinema e a sospettare che almeno per un po' sarebbe rimasto l'arte del nostro tempo, oggi può sorridere. Lo può fare in Italia perché il pubblico è tornato nelle sale, 120 milioni di spettatori nel 2007, come nel 1986. E lo può fare anche, anzi soprattutto, perché nei film continua a specchiarsi l'immaginario diffuso, almeno quello che possiamo chiamare critico. Questo segna la differenza tra cinema e televisione, oggi come e più di ieri. La capacità critica del primo, appunto, e la sua vocazione a mettere in questione, a suscitare domande, a suggerire dubbi. In un certo senso, è con i film e nei film che si scrive la storia del nostro presente e anche la sua filosofia. In quale altra forma popolare d'espressione c'è stata un'analisi sofferta della morale diffusa, paragonabile a quella del Decalogo girato fra gli anni 80 e 90 da Krzysztof Kieslowski? E in quale altra arte c'è stato un disvelamento dei vizi del potere, come quello messo in scena da Aleksandr Sukharov in Moloch o Il Sole? Certo, le opere del regista polacco e a maggior ragione quelle del russo non raggiungono il pubblico più vasto, però a quel pubblico arriva, per esempio, il Batman raccontato e molto rivisto da Tim Burton prima e da Christopher Nolan dopo. Così a quel pubblico arriva anche una critica radicale e insospettata dell'odierna propensione politica allo sfruttamento della paura a fini di controllo sociale. E gli arriva quella critica non imposta dall'alto, ma resa necessaria dentro le immagini, dentro le storie raccontate. In ogni caso, che il suo pubblico si conti a decine di milioni o a centinaia di migliaia, il cinema è ancora in grado di muovere le coscienze, addirittura di scandalizzare. Si pensi a quel che è accaduto in Italia nel 2003 a proposito di Buongiorno Notte. In quel suo film coraggioso, Marco Bellocchio è tornato a un punto dolente della nostra storia recente, la prigionia e l'assassinio di Aldo Moro, e lo ha fatto senza rispettare alcuna ortodossia. Il risultato è stato un dibattito forte, duro, più di una volta esacerbato. Insomma, una pratica che per lo più si evita in un paese abituato a non interrogarsi davvero su se stesso. Qualcosa di simile è accaduto negli anni con le opere belle e profonde di Gianni Amelio, Colpire al cuore, Il ladro di bambini, L'America. Solo La stella che non c'è è stato sommerso dal silenzio, e questo dice qualcosa sullo stato di salute preoccupante della nostra cultura, non solo cinematografica. Da ultimo, e certo non ultimo, è arrivato L'ermanno Olmi di Cento Chiodi, urlo e bestemmia sacra che ha scandalizzato molti e che ha indotto a pensare molti altri. E poi, al di là dei nostri confini, il cinema per sua natura li attraversa e li supera i confini, al di là dei nostri confini dunque, ci sono stati e ci sono autori e opere che davvero hanno raccontato e raccontano il mondo. Basti pensare ai film talvolta sarcastici, ma sempre crudeli, di Ethan e Joel Coen, che proprio a metà degli anni Ottanta hanno cominciato a vivisezionare quello che in seguito avrebbero raccontato come un paese non per vecchi. Si pensi poi a Clint Eastwood, che qualcuno fra gli anni Ottanta e Novanta ancora considerava una sorta di manesco ispettore Callaghan della regia e che invece ha girato storie coraggiose e dure, ma anche classiche, come Million Dollar Baby, Flags of Our Fathers, Letters from Iwo Jima. E ancora si devono aggiungere le opere di Spike Lee, di Gus Van Sant, di David Cronenberg, di Paul Haggis, del giovane Sean Penn, dell'antico Ken Loach. In ogni loro film, anche nel meno riuscito, c'è la prova che il cinema è vivo. E semmai la televisione a non godere di molta salute, con buona pace dei vecchi neri uccelli di malaugurio. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Roberto Escobar dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Nei giorni scorsi il governo ha varato la social card, una specie di carta di credito destinata ai cittadini meno abbienti. Ecco come Massimo Gramellini commenta l'iniziativa dalle pagine della Stampa. Diciamo la verità, la social card, latinorum inglese per designare la carta dei poveri, dal punto di vista psicologico è una pessima mossa. Emana aria di depressione, richiama la tessera annonaria dei tempi di guerra. Quanto di più lontano dal Berlusco ottimismo che il presidente del Consiglio vorrebbe trapiantarci sotto la cute. Ma ora che esiste, bisognerà almeno farla funzionare con decenza, evitando che per i finti poveri diventi una tessera dei furbi e per quelli veri una patente di fallimento esistenziale. La carta, che copre 40 euro di spese e di bollette al mese, non porta inciso il nome del beneficiario, ma va comunque esibita all'impiegato dell'ufficio o al commesso del supermercato, in mezzo a una folla di propri simili che osserverà e giudicherà. Non ho sufficiente stima del genere umano per immaginare che riesca a soffocare i suoi impulsi più meschini. Però confido che la crisi compia il miracolo di tutte le crisi ed esalti lo spirito di fratellanza che, non basandosi su regole certe ma su afflati emotivi, ha sempre trovato negli italiani gli interpreti più sorprendenti. Il mio timore riguarda i possessori della tessera, spesso degli anziani giunti al rendiconto di una vita. A costo di apparire patetico, mi inchino davanti a loro. Non devono sentirsi sconfitti, né imbarazzati. Provino vergogna ai ladri, i raccomandati, gli scansafatiche. Ma chi si è sempre sudato il suo pane ha diritto di passare attraverso questa gogna a testa alta. Sarà qualcun altro che, guardandolo, dovrà abbassarla. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Massimo Gramellini, Gogna senza vergogna, dalla Stampa del 27 novembre.